Il cambiamento personale, sociale e sessuale. Tutto ciò ci riporta al complesso intreccio tra strutturazione sociale del sesso e istituzioni e valori nel loro insieme, e nel contempo al tema principale della seconda parte di questo libro, cioè la lotta contro la sessualità del dominante e al fatto che è parte integrante della seconda fase dell'attuale rivoluzione della consapevolezza. Infatti, come i rapporti genitori-figli basati sul controllo parentale del corpo del bambino mediante la forza e la paura condizionano gli individui ad adattarsi alla società della dominanza, così una costruzione sociale della sessualità basata sul controllo delle donne da parte degli uomini condiziona gli individui a considerare del tutto naturale il controllo di una persona o di un gruppo su un altro. E ciò ancora una volta accade a livello corporeo, il più fondamentale, mediante altre varianti ancora della confluenza di dolore e piacere, e quindi di cura e offesa, che è l'essenza della sessualità della dominanza e non certo della partnership. In effetti, stili parentali e stili sessuali non sono slegati. Come vedremo, le persone che attraverso le famiglie, i gruppi di pari e altre esperienze infantili sono socializzate a considerare naturali le gerarchie basate su forza e paura, tendono a erotizzare il predominio e la sottomissione. Tuttavia, e questo è un punto cruciale, che è anche un elemento critico della teoria della trasformazione culturale, ciò non significa che gli individui ed adulti non possano cambiare i loro atteggiamenti, comportamenti e rapporti. Per la verità, la premessa fondamentale della moderna psichiatria è che una volta diventati coscienti di atteggiamenti, comportamenti e rapporti malsani, gli individui possono consapevolmente e deliberatamente cambiarli in un qualsiasi momento della loro esistenza. Ma se di questo si è ampiamente discusso, poca attenzione è stata dedicata al fatto che apportando cambiamenti nei nostri atteggiamenti, comportamenti e rapporti personali, acquisiamo anche il potere di operare consapevolmente a favore del cambiamento sociale, che poi a sua volta favorisce un ulteriore cambiamento personale. Inoltre, mentre l'importanza della sessualità nel comportamento umano e nella struttura della personalità era stata già rilevata da Freud e da altri psicoanalisti, solamente Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e pochi altri hanno sottolineato l'interconnessione tra sessualità e struttura sociale. E persino questi ultimi trascurano un punto di solito evidenziato solamente nelle analisi femministe, la costruzione sociale della sessualità e la costruzione sociale dei rapporti e dei ruoli di genere sono inestricabilmente intrecciati ed entrambe influenzano e sono influenzate da tutte le istituzioni sociali. Inoltre, sebbene abbiano riconosciuto l'importanza fondamentale della distorsione e della repressione di cui è oggetto la sessualità nelle società autoritarie, non compresero, come noi oggi, che per via dell'impatto a livello corporeo delle nostre esperienze sessuali, così come nelle esperienze infantili, i cambiamenti degli atteggiamenti e dei comportamenti sessuali svolgono un ruolo fondamentale nel processo di guarigione personale e sociale. Sono tutte questioni che esamineremo abbastanza dettagliatamente nei prossimi capitoli, esplorando la promessa che in futuro ci aspetta una vera rivoluzione sessuale, sia a livello individuale sia a livello sociale. Ma prima di proseguire, desidero chiarire un certo numero di fraintendimenti a proposito di quella che negli anni 60 e 70 fu denominata la moderna rivoluzione sessuale. In primo luogo, contrariamente a quanto spesso ci viene detto, anche in altri periodi della storia dell'Occidente gli atteggiamenti e i comportamenti sessuali furono relativamente sciolti e in taluni circoli addirittura molto liberi. In secondo luogo, sotto molti aspetti significativi, la moderna ribellione contro i costumi sessuali tradizionali iniziò in Occidente molto prima degli anni 60 e 70. Per esempio, nei lontani anni 70 dell'Ottocento, donne come Tennessee Claflin e Virginia Woodhull sfidarono la massiccia censura sociale contestando il doppio standard sessuale per donne e uomini. All'inizio del XX secolo, donne come Alexandra Kollontai ed Emma Goldman scrissero di una nuova sessualità quale base di un nuovo ordine sociale. Nello stesso periodo, Margaret Sanger sfidava le vessazioni da parte del governo e addirittura il carcere per introdurre i contraccettivi negli Stati Uniti. Negli anni 20, specie tra artisti e intellettuali, forte era la spinta verso quella che sarebbe poi stata chiamata liberazione sessuale. E sebbene gli anni 50 siano stati un periodo di relativo conservazionismo sessuale e sociale, pure portarono le ricerche pionieristiche sul sesso condotte da Alfred Kinsey. Per giunta, Quanto accadde negli anni 60 e 70 fu ben più di un allentamento delle costrizioni sessuali. È vero che solo allora parlare di sesso in pubblico divenne improvvisamente accettabile e allora soltanto molti uomini e molte donne per bene cominciarono a convivere alla luce del sole senza il vincolo matrimoniale e improvvisamente comparve in Occidente una controcultura sessuale che coinvolse in uno stile di vita che si era chiamato bohémien, i figli di molte famiglie borghesi e anche qualche adulto più avanti negli anni. Sempre negli anni 60 e 70, le ricerche innovatrici di William Masters e Virginia Johnson rivelarono che le donne sono interessate quanto gli uomini al sesso e sono altrettanto capaci di trarne piacere. Parve che il doppio standard sessuale sarebbe ben presto diventato una cosa del passato. Gradualmente uomini e donne gay uscirono dall'armadio, i contraccettivi, pillola compresa, non furono soltanto legalizzati ma pubblicizzati e l'aborto fu depenalizzato. Sempre in questi decenni le critiche femministe alla sessualità del dominante e in particolare alla disumanizzazione e oggettivazione del corpo femminile, semplice oggetto sessuale per il maschio, cominciarono a gettare i semi di una nuova consapevolezza sul sesso mediante le opere di donne quali Susan Brown Miller, Susan Griffin, Bell Hooks, Laura Lederer, Robin Morgan, Adrian Rich e Gloria Steinem e di uomini quali Harry Broad, Don Sabo e John Stoltenberg. Siccome il sesso cominciava a diventare oggetto di grande attrazione tra la gente come tra gli studiosi, fu possibile discernere un certo numero di tendenze. Una era il graduale rifiuto da parte di un gran numero di donne e di uomini della credenza che il sesso, e specie il sesso praticato soltanto per il piacere, non era salutare e sano, bensì sporco e peccaminoso. Una seconda tendenza era il tentativo da parte di una massa crescente di donne di conquistare l'indipendenza sessuale, il potere di scegliere liberamente come e con chi accoppiarsi e se avere o meno dei bambini. Una terza tendenza era il tentativo di una crescente massa di donne di reclamare il diritto al piacere sessuale e di lasciarsi finalmente alle spalle il concetto secondo cui la donna sessualmente attiva è una donnaccia o una sgualdrina. Una quarta tendenza era il riconoscimento diffuso del fatto che il sesso eterosessuale non è l'unica sessualità normale, poiché in realtà, in una certa percentuale, donne e uomini sono stati nel corso della storia e ancora sono omosessuali. Una quinta tendenza era la graduale demistificazione della sessualità, accompagnata dall'esplosione di miti numerosi e tuttora ampiamente accetti, come la credenza che la masturbazione è dannosa. La credenza che le donne sono più carnali degli uomini, che le donne gradiscono lo stupro e, poiché i miti del dominante sono spesso affatto contraddittori, che soltanto gli uomini vogliono il sesso e ne traggono davvero piacere. Mentre dagli anni 70 si passa agli 80 e 90, si verificarono altri importanti cambiamenti. Siccome la verginità della donna non era più considerata un trofeo matrimoniale, donne e uomini sempre più frequentemente si resero conto di poter essere amici e amanti e di poter restare amici anche quando smettevano di essere amanti. Nel contempo, sempre più numerose erano le donne che cominciavano a contestare il tradizionale modello maschile del catalogo del punteggio ottenuto con rapidi incontri di una notte e pian piano a loro si affiancarono in numero crescente anche degli uomini. Nonostante la fiera resistenza incontrata a ogni passo lungo il suo cammino, l'educazione sessuale cominciò a entrare nei programmi scolastici, in parte per via dell'aumento delle gravidanze tra gli adolescenti e per paura dell'AIDS, cominciò a diffondersi anche l'educazione alla contraccezione, che pure si scontrò contro un'opposizione fortissima. Proliferarono libri e articoli su come uomini e donne possono trovare maggiore soddisfacimento sessuale ed emotivo nei loro rapporti, e in particolare nei cosiddetti circoli New Age si prese a esplorare il nesso tra sessualità e spiritualità, nel tentativo di reintegrare le due cose. Ma altre tendenze prendevano una ben diversa direzione. Una fu l'ampia produzione di materiali pornografici che illustravano il sesso come un'attività fondamentalmente meccanica e impersonale, in cui non c'era posto per l'affetto e nemmeno per il riconoscimento dell'umanità dell'altro. Un'altra fu che questa rappresentazione del sesso, sebbene in immagini meno esplicitamente sessuali, veniva diffusa dalla televisione e dai film di cassetta. Un'altra ancora era che il sesso veniva incessantemente collegato al predominio e alla violenza, con le donne o con gli uomini che assumevano il ruolo che lo stereotipo affida alle donne, mostrati come se si compiacessero del trattamento. Quel nesso, come vedremo, non era, come spesso si afferma, un prodotto della moderna rilassatezza dei costumi sessuali, ma era profondamente radicato in antiche tradizioni della dominanza, religiose e laiche. Inoltre, la violenza sessuale andava aumentando nella vita reale, sebbene alcuni dei salti nelle statistiche degli stupri riflettessero l'incidenza delle denunce, poiché si cominciava a considerare lo stupro un crimine contro la persona e non più un atto di passione sessuale provocato dall'abbigliamento o dal contegno impropri della vittima. Si ebbe anche, come sottolineò Michel Foucault, l'assunzione della ribellione sessuale come sostituto di qualsiasi vero sforzo per cambiare gli squilibri di potere. Per esempio, il discorso sociale ora ammissibile sul sesso era in gran parte forgiato da esperti in medicina, psichiatria e poi sessuologia, i cui insegnamenti, se li esaminiamo da vicino, tendono a presentare come normali i rapporti dominante-dominato. Inoltre, questo ossessivo parlare del sesso spesso deviava nella ribellione puerile di un linguaggio sboccato che lo manteneva a livello delle parolacce tanto care ai preadolescenti e portava così a un ulteriore svilimento del sesso. Per giunta, fin troppo spesso, come nelle canzoni rock ascoltate da migliaia di giovani, la libera discussione intorno al sesso deviava in parole e immagini che non soltanto degradavano le donne e il sesso, ma esaltano la più brutale violenza sessuale come un ottimo divertimento virile. Parimenti, il riconoscimento che il sesso non legato alla procreazione è normale e sano spesso diventò una scusa per far pressione in nome della libertà sessuale affinché una persona, volente o nolente, si piegasse ad un rapporto. La lotta per il sesso, la consapevolezza è il nostro futuro. Arriviamo così a un punto critico che ci offre l'occasione per spazzare via la confusione e lo scompiglio che ci assediano. Il punto è che in parte quella che è stata definita con lo slogan rivoluzione sessuale è in realtà un aspetto della controrivoluzione sessuale del dominante. Non sottolineerò mai abbastanza questo punto. È facile, sotto la maschera della libertà sessuale o di qualsiasi altra libertà, per coloro che detengono il potere, dominare più efficacemente quanti sono socialmente deprivati del potere. Lo vediamo nei rapporti che nulla hanno a che fare col sesso, in cui fin troppo spesso la libera impresa è servita come cortina fumogena per la dominazione e lo sfruttamento di gruppi economicamente diseredati come le minoranze e le donne. E sicuramente lo vediamo nei rapporti sessuali, in cui la libertà sessuale troppo spesso ha prodotto uno stile predatorio ancora più bieco, in quanto le donne subiscono pressioni affinché si rendano disponibili semplicemente perché un uomo le ha invitate a cena o a teatro, e come negli appuntamenti con stupro, date rapes, di cui si sente parlare oggi, se si rifiutano sono talvolta costrette al rapporto. In altri termini, ritroviamo qualcosa in cui già ci siamo imbattuti nella parte prima, il meccanismo di cooptazione del dominante, ovvero l'appropriazione e la distorsione delle tendenze sociali alla partnership, onde mantenere o imporre di nuovo i rapporti dominante e dominato. Questo problema della cooptazione è stato una costante lungo tutta la prima fase, non solo della moderna rivoluzione sessuale, ma anche della moderna rivoluzione delle coscienze. Per esempio, molte delle importanti e dirompenti innovazioni intellettuali dell'illuminismo furono cooptate nella costruzione di una scienza che troppo spesso è servita soltanto a rendere più efficienti l'oppressione e la distruzione, tema questo su cui torneremo in seguito. Importanti teorie economiche e politiche moderne, come quelle di Adam Smith e di Karl Marx, furono cooptate al servizio delle regressioni politiche ed economiche del dominante. E persino la demolizione importantissima delle credenze, dei miti e degli stereotipi della dominanza ha cominciato a essere cooptata in un attacco nichilistico sferrato contro tutte le regole e tutti i valori, il che, per ironia della sorte, spalanca ancor più la porta a quanti vorrebbero imporci di nuovo le regole e i valori della dominanza, che risalgono a un'epoca anteriore alla rottura decisiva con il nostro passato autoritario che cominciò a prendere forma con l'illuminismo. Questa controspinta repressiva è particolarmente evidente nelle persone che paiono letteralmente ipnotizzate da leader religiosi che alternativamente le minacciano con i più tremendi castighi divini e promettono loro che Dio, in cambio della totale obbedienza, sceglierà e salverà soltanto loro, mentre tutti gli altri periranno quando Armageddon decreterà la fine del mondo. Ma la loro fiera opposizione a qualsiasi cambiamento nella famiglia tradizionale e nei rapporti sessuali sul modello dominante e dominato è un aspetto soltanto della lotta tra regressione verso il modello della dominanza e rinascita del modello della partnership che determinerà il nostro futuro. Per certo, il controllo sociale e sessuale sarà rigidissimo, in cui il vero uomo forte è un irato padre divino che non autorizza né la libertà né l'uguaglianza, il cui potere, come quello degli uomini che governano nel suo nome, è imposto e mantenuto con le minacce della più dolorosa violenza. E vorrebbero anche imporci nuovamente un severo e, se necessario, controllo violento sulle donne e sulla sessualità femminile, poiché questo controllo è nel contempo un simbolo e una scintilla che fa divampare tutte le altre forme di predominio e di controllo. Ma come vedremo, questa lotta dei tempi nostri su questioni tanto fondamentali come la nostra visione del sesso, del genere e del corpo, si svolge in modi di gran lunga più sottili e dotati di ubiquità, che trascendono classificazioni convenzionali quali destra contro sinistra e laicismo contro religione. E mentre tremenda è la spinta alla regressione, fortissima e crescente nonostante i periodici arresti, è la spinta in avanti. Sul successo e il fallimento di questo movimento non si è ancora pronunciato l'ago della bilancia. Sempre più numerosi, ci risvegliamo dalla transmillenaria della dominanza e ci rendiamo conto che molto di quanto era considerato realtà era una costruzione sociale che può dunque essere demolita e ricostruita. Pertanto, un fattore determinante per l'avanzato e la regressione sarà la scelta di spiegarci oltre nella demolizione, ma sottolineando molto di più la ricostruzione. E in particolare la ricostruzione delle nostre più fondamentali credenze sul genere, il sesso e il corpo, quale componente essenziale di quella che giustamente Anthony Giddens ha chiamato la democratizzazione della vita quotidiana. Perché soltanto allora avremo quelle solide fondamenta necessarie a sostenere il cambiamento nella sfera pubblica e nella sfera privata. È troppo presto per progettare nei particolari la forma che assumerà questa ricostruzione. Ma se riusciremo a completare il passaggio culturale da un'organizzazione sociale e ideologica della dominanza a quella della partnership, allora assisteremo a un'autentica rivoluzione sessuale, quella in cui il sesso non è più associato al predominio e alla sottomissione, ma alla piena espressione del possente, struggente desiderio umano di connessione e di piacere erotico. Sarà una sessualità che ci consentirà di esprimere e sperimentare appieno la passione sessuale, quale stato alterato della coscienza. Consentirà anche di riconoscere che il piacere erotico può essere imbevuto di una spiritualità nel contempo immanente e trascendente e combinerà una maggiore libertà sessuale a un maggior grado di empatia, rispetto e responsabilità, cura. Vorrei chiarire che per empatia, cura, responsabilità e rispetto non intendo dei legami sessuali inflessibili a vita, anche se può incarnare queste qualità. Il sesso nei matrimoni indissolubili troppo spesso è stato caratterizzato da mancanza di rispetto, di empatia, di responsabilità e di cura. E quella che oggi chiamiamo monogamia seriale, ovvero una serie di relazioni impegnative al posto di un'unica relazione esclusiva fino alla morte, accompagnata da una sana spontaneità e dalla sperimentazione sessuale, non è incompatibile con rapporti sessuali affettuosi, empatici, reciprocamente responsabili e rispettosi. E neppure riconoscendo la possibilità che il sesso possa essere spirituale, intendo dire che se riusciremo a passare a una società della partnership, tutti i rapporti sessuali avranno questa dimensione. Ma in una società improntata alla partnership, tutti i rapporti sessuali, dai più giocosi ai più appassionati, non saranno più associati a un tatto impersonale, meccanico e o coercitivo. Né il corpo umano, femminile o maschile, in tale società sarà immaginato come un semplice strumento che l'altro può usare e di cui può addirittura abusare. È davvero possibile costruire una società in cui il nostro struggente desiderio di connessione affettuosa, di un dispiegamento dell'io più alto attraverso l'unione fisica e spirituale con un altro essere, in breve, di amore, sia socialmente sostenuto invece che distorto e represso? Credo di sì. Ma sono anche convinta che se vogliamo costruire una società in cui il sesso non sia connesso alla violenza e al predominio, ma al vero erotismo, ai poteri, cioè di dare vita e piacere che stanno dentro di noi e intorno a noi nel mondo, dobbiamo liberarci completamente da tutto quanto ci ha lungamente legati a miti e realtà dolorose e malsani. Dobbiamo arrivare a una comprensione di quella che ho qui chiamato la politica del corpo e di come si connette a quanto finora è stato convenzionalmente definito politico. Dobbiamo comprendere meglio come e perché il predominio e la violenza sono stati erotizzati e persino, sotto la maschera dell'spiritualità, santificati. Cosa più importante ancora, dobbiamo avviare la ricostruzione non soltanto della sessualità e della spiritualità, ma di tutti gli aspetti della nostra esistenza, poiché, come abbiamo visto nella parte prima, il modo in cui la sessualità è costruita differisce fortemente nel contesto di una società della partnership o della dominanza. In breve, come si vedrà nei prossimi capitoli, dobbiamo passare dalla prima alla seconda fase, sia della moderna rivoluzione delle coscienze, sia della rivoluzione sessuale, se vogliamo creare le condizioni che faciliteranno, invece di ostacolare, il dispiegarsi dei più alti potenziali della nostra specie, inclusi potenziali altamente sviluppati per un amore e un piacere intensi che ci rendono unici nel sorprendente scenario della vita su questo pianeta. Capitolo 11. Dai vincoli dell'assoggettamento ai legami affettivi, sesso, spiritualità e repressione. I mutamenti che avvengono nella coscienza sono proprio strani. D'improvviso vediamo ciò che era sempre stato lì e ci chiediamo perché non l'abbiamo mai visto prima. Per la maggior parte della mia vita non ho avuto praticamente consapevolezza di un'eventuale connessione tra repressione sessuale e politica, e tantomeno del modo in cui i ruoli stereotipati di genere che deformano sia il sesso sia la spiritualità possono abituarci al predominio. Durante la mia infanzia trascorsa a Cuba, paese cattolico, non mi capitò mai di domandarmi perché la donna e il sesso fossero considerati peccaminosi, e neppure la mia mente si avvedeva che negli scritti sette e ottocenteschi che leggeva a scuola sul diritto degli uomini alla vita, alla libertà e alla proprietà, gli autori intendevano proprio gli uomini, ma solamente, a dir il vero, gli uomini bianchi possidenti. Ora, come tanti altri, sono pienamente e dolorosamente conscia di queste cose. Sono consapevole del fatto che quando Abigail Adams, moglie di un futuro presidente degli Stati Uniti, suggerì agli artefici della Costituzione americana di non dimenticare le signore, il marito liquidò l'idea come semplicemente ridicola. Thomas Jefferson, tra i più eminenti portavoce dei nuovi ideali sui diritti dell'uomo, era poi un proprietario di schiavi che possedeva la sua amante schiava. Persino John Locke, che attaccò duramente il concetto di famiglia patriarcale in quanto naturale fondamento della monarchia assoluta, affermando che i due genitori hanno pari titolo al potere sui figli, asseriva che esiste in natura un fondamento della soggezione legale e consuetudinaria delle donne ai relativi mariti. E il filosofo francese Jean-Jacques Rousseau, famoso per la sua difesa della libertà degli uomini, patrocinava il contrario per le donne, asserendo che le ragazze dovrebbero essere limitate già in tenera età. Infatti, secondo Rousseau, la docilità è qualcosa di cui le donne avranno bisogno per tutta la vita, poiché sempre saranno soggette a un uomo e ai giudizi degli uomini, e non sarà mai consentito loro di porsi al di sopra di questi giudizi. L'idea di Rousseau, secondo cui le donne sempre saranno soggette agli uomini, non era, come la storica della politica Linda Kerber scrive in Women of the Republic, solo di natura filosofica. Kerber osserva che i gusti sessuali sadomasochistici gli davano un sostanziale spunto personale nell'assumere questa posizione. Non si vuole implicitamente affermare che tutti gli uomini che adotteranno una visione della libertà e dell'uguaglianza per gli uomini così diversa da quella per le donne fossero sadomasochisti, ma chiaramente questa doppia misura per la libertà e l'uguaglianza è servita a mantenere il predominio maschile. Per giunta ci ha resi ciechi davanti a un'assurdità. Come possiamo parlare di una società libera e democratica che prevede eguaglianza e giustizia per tutti, quando nel frattempo la dominazione di una metà dell'umanità sull'altra è accettata perché è giusta e corretta? Questo doppio standard di genere ci ha inoltre ostacolato nel vedere un altro fatto di importanza fondamentale, che l'erotizzazione del predominio ha costituito un ostacolo gravissimo per la lotta tesa a creare una società libera ed eguale. Perché, contrariamente a quanto ci è stato insegnato, libertà ed eguaglianza non sono soltanto una questione di organizzazione politica, ma di struttura della vita personale e sociale nel suo complesso. Per dirlo in modo ancora più specifico, come scrive Kerber, lo stile sessuale è il completamento dello stile politico. A questo, sulla base delle mie ricerche, vorrei aggiungere che lo stile sessuale è anche il complemento dello stile religioso spirituale. È questo motivo in più per cui l'attuale ricerca di una politica nuova e di un'economia nuova è inestricabilmente connessa all'attuale ricerca di una sessualità e di una spiritualità nuove. Ed è per questo motivo che inizieremo questo capitolo scioccando qualcuno. I modi in cui, nel nome della spiritualità, le autorità religiose hanno usato il sesso per mantenere le gerarchie della dominanza. Sesso, religione e dominazione. Desidero cominciare reiterando ciò che ho già detto nella parte prima, che nella nostra eredità religiosa giudaico-cristiana si trovano molti importanti insegnamenti a favore della partnership e che la distorsione della sessualità umana, di cui ci stiamo qui occupando, non è una funzione della nostra eredità religiosa, ma dell'eredità della dominanza. Comunque, come abbiamo visto nella parte prima, spesso in Occidente ha contribuito a mantenere le gerarchie della dominazione, alleviando in parte l'inutile sofferenza causata da queste gerarchie. Inoltre, come abbiamo intravisto nella parte prima, la Chiesa cattolica medievale svolse un ruolo di primaria importanza nel suscitare attivamente in donne e uomini inutili sensi di colpa, paura e sofferenza. È a tutti noto che sebbene alcuni ecclesiastici non fossero celibi e taluni possedessero persino delle case di tolleranza, la Chiesa cattolica cristiana del Medioevo spendeva molto tempo ed energie nell'escogitare regole e castighi per i comportamenti sessuali di uomini e donne, e persino per le loro fantasie sessuali. Ma se vogliamo liberarci dalla schiavitù, di tradizioni millenarie di repressione sessuale, personale e politica, dobbiamo comprendere appieno come e perché ciò accadde. Secondo alcune autorità cristiane, come Siricio, diventato papa nel 384, l'ostilità della Chiesa nei confronti del sesso, in particolare della sessualità femminile, seguiva semplicemente gli insegnamenti di Cristo. Peraltro, come sottolinea la storica delle religioni Uta Ranke Heinemann, questa affermazione è priva di fondamento. In realtà Gesù predicava contro una società in cui gli uomini lapidavano le donne accusate di adulterio, tanto che fermò la mano di quegli uomini, e contro una società in cui la poligamia era considerata un privilegio offerto agli uomini da Dio, e in cui il divorzio per le donne era quasi impossibile, mentre un uomo poteva disfarsi di una moglie che non voleva più, ripetendo semplicemente per 3 volte io divorzio da te, pratica ancora in uso presso le attuali società fondamentaliste islamiche. Non che sia stato il cristianesimo a introdurre questa ostilità nei confronti del sesso. Sebbene ci dicano che i cristiani insegnarono ai pagani l'ascetismo sessuale, ovvero il controllo severo e il disprezzo per il sesso, la visione negativa della Chiesa nei confronti del sesso e delle donne era già condivisa da parecchi pagani. Per esempio, l'imperatore Marco Aurelio, che perseguitò violentemente i cristiani, nelle sue celebri memorie descrisse il sesso come un attrito interno e un'espulsione di muco con una sorta di spasimo, mostrando lo stesso disprezzo e disgusto per il corpo umano che si ritrova negli scritti di quei cristiani che poi avrebbero denunciato i pagani per la loro immoralità e licenziosità. Marco Aurelio era, d'altro canto, un filosofo stoico che si rifaceva alla scuola filosofica fondata da Zenone, in cui serpeggiava un certo disprezzo per le donne, il corpo umano e il piacere sessuale. Gli stoici influenzarono alcune sette cristiane, e in particolare gli adepti del più ascetico gnosticismo, i quali predicavano la rinuncia a tutto ciò che è di questo mondo. E come alcuni moderni seguaci di Armageddon, non vedevano possibilità di redenzione se non dopo il superamento, l'abbandono o la distruzione di tutto quanto è corporeo o mondano. Ma fu la gerarchia della Chiesa cristiana a dichiarare, come scrive Ranke Heinemann, che il luogo per eccellenza del peccato è il sesso, a proclamare la donna un pericolo costante per l'uomo. E a promulgare un editto dopo l'altro per proteggere gli uomini dalla sessualità delle donne con gli strumenti più incredibilmente brutali e repressivi. Fu la Chiesa che invalidò i matrimoni dei sacerdoti, scacciandone le mogli e lasciandole prive di qualsiasi mezzo di sussistenza. Fu la gerarchia, tutta di maschi, della Chiesa a scrivere e a cercare di imporre sinodi che proclamavano la pericolosità per tutti gli ecclesiastici di qualsiasi contatto con le donne. Nel XVII secolo i sinodi di Nantes e di Magonza arrivarono a proibire ai preti di vivere sotto lo stesso tetto con madri e sorelle, e come il sinodo di Parigi dell'864 si proibì alle donne di entrare in un luogo se vi si trovava un prete. E fu ancora la Chiesa, con estrema protezione degli uomini dal pericolo delle donne, a scatenare la caccia alle streghe, che lasciò alcuni centri quasi del tutto privi di popolazione femminile. Uccise parecchie migliaia, se non addirittura milioni di donne, accusate di stregoneria e privò la medicina occidentale di una conoscenza delle erbe e di altri medicamenti dal valore inestimabile che veniva trasmessa da sacerdotesse e curatrici pagane di generazione in generazione. Riflettendoci, è strano, forse incomprensibile, che soltanto in tempi assai recenti l'arresto e la tortura e l'uccisione di tante donne volute dalla Chiesa abbiano cominciato a essere considerati null'altro che una guerra religiosa globale, contro le donne. Ed è altrettanto strano che gli storici cristiani tuttora continuino a ignorare che l'insegnamento della Chiesa, secondo cui la donna e il sesso devono essere a ogni costo controllati dall'uomo, è servito a mantenere il predominio maschile e per giunta a condizionare sia le donne sia gli uomini a qualsivoglia forma di repressione e di dominazione. Chiaramente, la degradazione ossessiva da parte della Chiesa del sesso e della donna fu uno strumento per impedire legami sessuali tra donne e uomini. Se gli uomini devono essere protetti per non essere inquinati dalla sessualità della donna, vuol dire che l'amore sessuale è pericoloso. E pericoloso è pure qualsiasi allentamento del controllo maschile sulle donne. Ma quel costante associare il sesso non con il piacere, ma con il castigo eterno e il dolore, non era per la Chiesa solo modo per allontanare gli uomini dalle donne e di giustificare così e mantenere il predominio maschile. Serviva anche a estraniare gli uomini dal loro corpo, dalle loro emozioni e soprattutto dal loro umano bisogno di amorevole connessione. Così facendo, in modo quanto mai efficace, serviva non soltanto a distorcere la sessualità degli uomini e delle donne, ma in modo quanto mai efficace condizionava uomini e donne a distorcere il più basilare bisogno umano di connessione, il bisogno di sesso e d'amore, in un'accettazione del predominio, della coercizione e della repressione. Infatti, se un individuo poteva accettare per il proprio bene il controllo coercitivo della Chiesa sulla propria sessualità, su come toccava ed era a sua volta toccato dagli altri e persino su come pensava il proprio e l'altrui corpo, sicuramente poteva, sempre per il proprio bene, accettare una serie di altri controlli coercitivi. Se il piacere sessuale del corpo era peccato, forse non era invece peccato provocare agli altri sofferenze fisiche, sempre per il loro bene, come la Chiesa medesima regolarmente faceva. Quindi, mentre la Chiesa continuava a dar voce al messaggio di pace e d'amore del Cristo, poteva nel contempo ordinare l'istituzione dell'Inquisizione e indire le crociate. Poteva continuare a predicare che siamo tutti fratelli in Cristo e nel contempo passar sopra al virtuale asservimento delle donne ai mariti e all'asservimento di uomini ad altri uomini, di nazioni ad altre nazioni. E mentre i principi della Chiesa andavano parlando di liberazione degli uomini dalla tirannide della carne con l'astinenza da qualsiasi piacere sessuale, nel frattempo potevano scrivere le regole più complesse, crudeli e manifestamente assurde per controllare in modo tirannico i comportamenti sessuali più intimi e persino i pensieri delle donne e degli uomini del loro gregge terreno. Ed è questo controllo sui corpi il principale sostegno dell'organizzazione sociale della dominanza.